Fino a quando tutte le gabbie non saranno aperte? Fino a quando tutti i laboratori non saranno chiusi? Non ci sarà liberazione neanche per gli esseri umani. Radio Possum, ogni lunedì dalle 22 alle 23 per parlare di antispecismo, liberazione animale e della terra. Fibio! Non si può andare qui! Fuori! Prima o poi vi sparo! Prima o poi vi sparo! E allora, quando sono le 22 e 2 minuti, oggi buchiamo l'etere, perché facciamo la trasmissione con serietà. Questa è Radio Possum su Radio Onda Rossa. Ospiti d'eccezione questa sera, ospiti importanti. Beh, oggi direi che saranno milioni ad ascoltarci, visti i cartelli che ho appeso per tutto il canile, di ascoltare la trasmissione. Vabbè, quindi di cosa parleremo mai questa sera? Attenzione, attenzione. Ah, questa sera abbiamo appunto un compagno in radio con noi, in diretta, che appunto ci parlerà dei canili, della situazione attuale, dei vari cambiamenti che stanno avvenendo all'interno, insomma, anche della nostra politica romana, e capiamo, insomma, quale sarà il futuro. Sì, entriamo subito nel vivo della discussione. E diciamo che l'impatto che ha avuto questa nuova giunta non è dei migliori. Noi ci siamo trovati in questi giorni, in queste settimane, a dover combattere contro un taglio imposto dal comune di metà dei fondi a disposizione per la gestione dei canili e dei gattili municipali. Questo facendo due conti, i cosiddetti conti della serva, avrebbe portato al licenziamento di 62 dei 106 lavoratori che operano tuttora nei canili comunali, lasciando, naturalmente, le conseguenze sono facili. Insomma, in quel posto non è certo un'esperienza giovanile, lì ci sono lavoratori e lavoratrici che lavorano da oltre 10 anni in quel posto, che si sono costruiti una professionalità, che fanno con amore e con impegno il loro lavoro e che si sono costruite famiglie, pagano affitti, mutui. Voi pensate bene, insomma, le conseguenze che avrebbe portato un taglio così incredibile. E noi ci siamo immediatamente mobilitati affinché ciò non avvenisse. In questi giorni, notizia delle ultime ore, diciamo che abbiamo ottenuto un piccolo aiuto sui fondi, non abbiamo ottenuto il massimo che potevamo ottenere, ma ci aiuta per arrivare fino al 30 dicembre, dove ci sarà, diciamo, lì la battaglia finale sul bilancio, che riempie le pagine dei giornali in queste ultime ore, perché sono previsti, abbiamo letto tutti, specialmente per l'assessorato all'ambiente, che è l'assessorato di riferimento per i canili comunali, un taglio del 39%, quindi stiamo parlando di 40 milioni, se non mi sbaglio, una cosa del genere, con tutto quello che comporta, quindi disservizi per il cittadino, licenziamenti e quant'altro. Ok, allora adesso mandiamo un attimo una canzone e poi, insomma, continuiamo questa chiacchierata e capiamo meglio quello che sta avvenendo. Brain flow dead and away play. Ticket easy. Torniamo in diretta, allora, partiamo con magari una prima domanda? Sì, tanto per inquadrare la situazione, perché poi spesso si parla di canili, comune, regione, ci puoi spiegare, partiamo proprio dal generale, cioè ci puoi spiegare un attimo la divisione delle competenze, che cosa c'entra il comune, che cosa c'entra la regione e via dicendo? Ok, sì, diciamo, entriamo nel dettaglio e quindi come sono, anche quali sono le strutture che poi sono gestite dal comune e quali sono le competenze poi. Perché poi in queste competenze che c'è tutto il risvolto sulla spesa pubblica, su che cosa vuol dire diritto e tutela dell'animale, del cane, del gatto che sia naturalmente. E noi come associazione lavoriamo come associazione volontari canini di Porta Portese, che gestisce le strutture principali, quella di Muratella, il canile rifugio del Poverello a Vitigna e l'ex cinodromo, il canile dietro il centro sociale Agrobax, e diciamo le competenze che sono del comune di Roma sono quella della gestione dei cani e dei gatti ospitali nelle strutture. Chi fa invece il lavoro, diciamo, sul territorio, quindi quello che dovrebbe fare le sterilizzazioni sul territorio, il controllo demografico, avere presidi sanitari e veterinari in ogni zona e quadrante di Roma come è diviso, è la regione con l'ASL. Però voi, e qui diciamo entriamo anche nel dettaglio dell'assurdità dei tagli che ci sono stati, no? Cioè un comune, un ente che vuole tutelare animali e lavoratori, non taglia un costo, mette a fuoco quali sono gli sprechi, e qui si inseriscono anche le competenze e i ruoli di regione e comune. Cioè il comune, e quindi i cittadini con i soldi dei contribuenti, paga una ditta privata per fare il controllo demografico. Sapete come avviene il controllo demografico? C'è una segnalazione, arriva l'ambulanza veterinaria privata che lavora a chiamata, quindi prende i soldi a chiamata, acchialappa il cane, lo seda, lo porta in canile e lo lascia in canile. Cane che vivrà e morirà in canile, perché magari sono cani che con una gestione migliore sul territorio, attraverso l'uso a questo punto di fondi ragionevoli che andrebbero utilizzati in quel contesto, si farebbe controllo demografico, non ci sarebbe la situazione che vi posso assicurare da dentro è allucinante. Nel canile comunale della Muratella oggi sono ospitati più del doppio dei cani che potrebbero essere dentro la struttura. Noi non sappiamo più dove mettere i cani, proprio perché non c'è nessuna volontà di difendere e di tutelare i diritti degli animali. Quindi da qui vi posso dire, neanche quelli dei lavoratori, quindi non c'è nessun interesse. Il dramma vero di tutta questa situazione è che al comune, alla regione, alle competenze dirette, i canili comunali, gli animali, i lavoratori del comune sono un costo, cioè non sono un'opportunità, una ricchezza da sfruttare per questa città, sono un costo, e come costo va tagliato, perché la crisi è la crisi, e si fa in maniera indiscriminata, lasciando naturalmente invece alla speculazione le porte aperte e tagliando invece su quelli che sono i diritti. Questo per essere insomma un po' più larghi di vedute. Diciamo anche che tra le varie zone d'ombra c'è il fatto che per esempio il comune di Roma deporta, diciamo così, cani anche presso strutture private, cani e gatti presso strutture private, a cui non vengono tagliati in questo caso i fondi, ma anzi addirittura nella previsione di bilancio sono stati aumentati, no? La cosa incredibile di tutto questo appunto è questa, quella che dicevo alla fine, cioè si tengono aperte le porte della speculazione, perché che succede? per giustificare il taglio ai canili comunali e ai gattili comunali, si è dato un costo giornaliero al cane. Solo che poi quel costo vale anche per i canili privati che ospitano i cani del comune di Roma. Però che succede? Che nelle strutture pubbliche c'è un lavoro che richiede, dal lavoro sanitario a quello di rieducazione, a quello della cura della mano, del lavaggio, delle pulizie, che ha un costo, che è quello però del servizio pubblico di qualità. Mentre al privato è stato raddoppiato la diaria giornaliera per cane, senza che nessuno sappia quanti lavoratori ci sono, come lavorano, in che condizioni, se sono sotto contratto, se non lo sono. Cioè, cose io penso incredibili ed è su questo che invece si dovrebbe intervenire. Una gestione corretta dei fondi verso i privati, sulle campagne sul territorio, anziché riempire di soldi privati e società private per prendere cani su cani a ripetizione, la gestione sarebbe quella sul territorio di controllo demografico e non di speculazione, perché poi di questo si tratta. Perché il comune non si occupa, diciamo, di questa pratica, cioè tende a portare appunto questi cani nei canili invece che portare avanti, diciamo, una politica differente, che è quella dell'accudimento degli animali sul territorio. Allora guarda, ti dico, c'era fino alla giunta Alemanno, c'era, era limitata, aveva i suoi limiti, però c'era una squadra sul territorio che operava e operava bene. Naturalmente sarebbe dovuta essere rinforzata, e ogni quartiere, ogni territorio, ogni quadrante avrebbe dovuto avere la sua, e c'era tutto. Con la giunta Alemanno questa è stata cancellata, e la cosa incredibile, appunto, che dicevo, è che non sembra suscitare nessun interesse da parte dell'amministrazione. Cioè, e realmente c'è un, diciamo, disinteresse nei confronti di questa situazione, che è in realtà esplosiva, perché realmente poi è anche una questione di ordine pubblico, diventa la gestione del randagismo, del sovraffollamento, una questione sanitaria, il comune ha degli obblighi. E la risposta, che ti può sembrare assurda, vi può sembrare assurda, ma è questa, cioè in realtà non interessa, tutto qua. Voglio mettere una canzone e poi andiamo avanti? Dai. Bene, torniamo in diretta e quindi, insomma, vogliamo entrare magari più nello specifico e parlare un attimo di come si lavora all'interno di un canile, quali sono, appunto, anche come vengono smistati i soldi che arrivano poi nei canili. Assolutamente, assolutamente, perché poi molte volte io capisco che magari non spiegare può anche, giustamente, chi ascolta dire: vabbè, ma tutti questi soldi poi alla fine per fare cosa? Dare da mangiare a un cane e fare una passeggiata? Non è assolutamente così, cioè ed è proprio questo quello che poi non giustifica il taglio, no? Proprio per tutte le attività che si fanno all'interno del canile. vi faccio un esempio proprio su come arriva un cane e cosa si fa. Arriva la società privata con un cane, un randaggio qualsiasi. Scusa se ti interrompo, ricordiamo sempre che la società privata lavora su appalto dell'ASL e lavora a percentuale di cane o gatto preso. Quindi sì. Ha tutto interesse a riempire la struttura di animali, tra l'altro di animali non solo feriti, vaganti o smarriti, per i quali c'è anche una logica nel fatto che entrino dentro una struttura, ma anche animali che vivono sul territorio da tantissimi anni e vivono tranquillamente liberi, che vengono presi e portati all'interno di una struttura da cui probabilmente non usciranno mai, tra l'altro. Parliamo di un interesse che non è rispetto all'animale, ma è appunto di una società che vuole chiaramente farci dei soldi. Assolutamente, infatti era proprio questo il senso, no, della domanda che mi hai fatto prima e della risposta che ti ho dato, cioè non c'è nessuna volontà, perché se si lascia speculare ad una società del genere sugli animali, non vedo perché il comune si dovrebbe preoccupare della gestione del territorio, anzi non interessa, più i randaggi sono sacchi all'appare più soldi si danno magari a qualche amico, non so, a qualche conoscente imprenditore. E quindi dicevamo, arriva qualsiasi tipo di cane. Tra l'altro dovrebbe essere la cosa giustamente selezionata, cioè l'ambulanza privata dovrebbe arrivare col veterinario che dovrebbe controllare l'effettivo, se il cane è effettivamente ferito, quindi prelevarlo e portarlo in canile per le cure. Questo non avviene, avviene che qualsiasi cane viene segnalato, viene sedato e portato in canile, e quindi qualsiasi tipo di cane può entrare, e la cosa funziona così: arriva il cane in canile, viene scaricato dal personale sanitario che lavora per l'Associazione Volontari Canini Porta Portese, che assistono il veterinario nella stabilizzazione del cane, quindi con analisi, visite e una scheda e la compilazione di una scheda clinica. Quindi già qui c'è un primo importante operazione che fanno i dipendenti di AVCPP. E il cane viene poi portato con gli educatori nel box di riferimento, ma non solo viene fatto questo, gli educatori fanno molto altro, cioè visto anche il sovraffollamento fanno prove di compatibilità tra cani, perché naturalmente il canile ha disponibilità di 400 cani, ce ne sono oltre 700, voi capite bene che non è possibile mettere un cane per gabbia, ma non è neanche possibile lasciare così al caso la compatibilità di due animali che tu potresti tranquillamente trovare sbranati il giorno dopo in gabbia. E questo non è, succede mai, non è mai successo, proprio perché c'è un'opera seria e professionale di persone che si occupano di questa compatibilità. Voi calcolate che entrano circa 3.000 cani l'anno in canile, cioè stiamo parlando di una media di 10, quasi 10 al giorno, cioè una media impressionante. Quindi il cane viene portato, fatta la prova di compatibilità, trovato un compagno di gabbia, messo nella gabbia, da lì ogni giorno è garantita la terapia se eventualmente il cane ha problemi sanitari, il lavaggio dello spazio, la cura alla mano che consiste nella passeggiata e nella somministrazione del cibo, uno, due o tre passi a seconda delle esigenze del cane, quindi ogni cane ha una scheda personalizzata di cibo e di cure sanitarie, e questo viene svolto ogni giorno dal lunedì alla domenica, Natale e Capodanno inclusi, perché si lavora sempre, i cani stanno là tutti i giorni, quindi c'è bisogno della presenza quotidiana. E per finire, penultimo, ma la cosa tra virgolette più importante, che è la mission poi dell'associazione, è quella dell'adozione, garantire una casa dignitosa a ognuno di questi cani. Naturalmente voi capite bene che con le cifre che vi ho detto prima, sull'ingresso di circa 8, adesso non ricordo, 7-8 cani al giorno, voi capite che è un lavoro improbo, non è possibile trovare casa a tutti questi cani, ed è per questo che ritorniamo a bomba sempre sul solito discorso sulla gestione dei territori, che sarebbe la cosa fondamentale, perché lì si gioca anche la partita poi della speculazione, come dicevamo prima. Tra l'altro, in una città come Roma, che si espande quotidianamente, in cui comunque vediamo che tutto il circondario, le zone più ancora diciamo selvagge, vengono piano piano mangiate dal cemento, ci sono sempre nuove costruzioni, per cui tutto ciò diventa chiaramente un problema per tutti questi animali che sono magari appunto cani randagi, gatti randagi, che vivono liberamente nel nostro territorio e che a un certo punto, grazie anche alla speculazione edilizia che ci ritroviamo in questa città, gli viene meno il territorio in cui sono abituati a vivere, quindi chiaramente il problema si ingigantisce ancora di più poi. Assolutamente, perché poi purtroppo dove spesso arriva l'essere umano arrivano anche i problemi per l'ambiente circostante, che è fatto di tutto, fatto di alberi, prati, e vengono mangiati dal cemento, ma anche di animali, cani che possono vivere tranquillamente liberi in territori che non sono, diciamo, tra virgolette colonizzati, no? E questo è normale e succede, ma succede sempre più spesso, perché appunto anche in quei contesti non c'è più nessuno, cioè noi abbiamo il Comune di Roma per primo, attraverso noi i lavoratori sono stati i primi a creare i cani liberi accuditi sul territorio, i cosiddetti CLA, dove persone o comitati di quartiere si intestavano i cani e potevano, questi cani vivevano nel territorio accuditi dai cani, dalle persone del quartiere, e potevano stare lì tranquillamente e serenamente. Adesso ci sono due persone che dovrebbero verificare su tutta Roma questa roba qua, ma come si fa? Cioè non si può fare, e quindi è normale che invece di proporre un cane che è destinato alla morte in canile in una gabbia, di proporre al cittadino un'alternativa sul territorio, in questo momento non è possibile, non c'è. Quindi tutto quello che dici tu è chiaro, è vero, normale, direi quasi. Io direi che magari facciamo un attimo di pausa, mettiamo un'altra canzone e poi ritorniamo in diretta. Allora, torniamo in diretta, continuiamo con sì, con voleva sì, continuiamo, cioè nel senso volevi un attimo riparto, aggiungere anche sì, qualcosa, anche un altro paio di cose, cioè nel senso sulle, anche sulla gestione delle strutture fisiche, questo per dire anche quanto gliene importa al comune del futuro delle strutture dei canili e dei gattili. E non so, molti di voi ci saranno stati al nuovo canile della Muratella, che ha aperto nel 2001, se non mi sbaglio, 2002, adesso non mi ricordo, è un canile in legno nuovissimo che non ha manutenzione, cioè, o meglio, noi come AVCPP abbiamo in gestione la manutenzione, la piccola manutenzione, abbiamo una squadra di manutentori che si occupa di tutte le piccole opere di manutenzione, anche perché gli strumenti, quelle per la grande manutenzione, sono altri, cioè bisogna di grandi strumentazioni che hanno un certo costo, che di certo come associazione non ci si può permettere. Quindi facciamo piccola manutenzione, ma non solo, si fa anche la grande, a rischio anche molte volte della sicurezza dei lavoratori stessi, sulle grandi manutenzioni, sulla grande manutenzione, perché il Comune di Roma manda ogni tanto qualche operaio a vedere se c'è una porta di sicurezza rotta, ma niente di più, cioè il canile potrebbe tranquillamente sprofondare e loro stanno lì e non fanno niente. Quindi questo era anche per precisare anche cosa altro si fa, perché poi anche questo fa parte, cioè se una gabbia cade a pezzi ci deve essere qualcuno che la tira su, che la aggiusta, che rende confortevole l'alloggio al cane, e anche questo va fatto e viene fatto. Quindi nel costo che noi mettiamo così in maniera fredda, no, del cane giornaliero, c'è veramente di tutto, a differenza, ve lo posso assicurare, dei canili privati, che non per chi ci lavora, che figurati, per carità, anzi magari subirà anche la situazione, no, magari un contratto precario o addirittura in nero e con condizioni di lavoro assurde per lui e per poi gli animali che vengono ospitati. E dire che il servizio pubblico si equipara a quello privato è una bestemmia, no? E quindi questo, ritorniamo ancora su questo taglio che il Comune vuole operare, cioè noi siamo realmente dei professionisti del settore. Noi in 10 anni molti abbiamo fatto formazione, molti si sono pagati la formazione in maniera privata, e tutto questo naturalmente per la gestione migliore possibile degli animali. Quindi realmente gli animali sono tenuti in maniera più che decorosa e più che dignitosa, e noi vorremmo che questo continuasse naturalmente, Comune permettendo. Ma nello specifico questi tagli, sia per appunto gli animali sia per voi umani invece, cioè su cosa andrà a incidere, quali sono le mancanze che ci saranno? Allora, all'inizio avevano prospettato dei tagli su tutta la parte amministrativa, addirittura di portierato, cioè praticamente secondo loro il pubblico veniva e già sapeva quello che doveva fare senza chiedere a nessuno, e il servizio di rieducazione, che forse il Comune pensava che era, non so, far fare il seduto o far darsi la zampa dal cane, ma non è così. Il lavoro degli educatori è un lavoro molto più profondo e più ricco, per appunto tutto quello che ho detto prima e ho spiegato. E invece adesso, diciamo, con la nuova bozza anche di servizi che ci hanno proposto, secondo loro il taglio dovrebbe essere un po' equo, un po' per tutti i settori. Quindi, diciamo, secondo loro dovremmo abbassare la qualità del servizio un po' dappertutto, quindi magari far stazionare un cane un giorno dentro, 2 giorni dentro un gabbione o un trasportino prima di essere trasportato nella propria gabbia, perché non c'è l'educatore in turno quel giorno perché sono stati tagliati, piuttosto che un cane che verrà pulito invece che una volta al giorno, una volta ogni 2 giorni, così vivrà nei suoi bisogni, nelle sue feci. Non so, forse questo pensa il Comune di Roma, e qui appunto cioè dimostra proprio il completo disinteresse rispetto al tema, diciamo. Va bene, abbiamo altre domande? Sì, io ti volevo chiedere, adesso che diciamo c'è questa sorta di pausa per 2 mesi, no? Poi le prospettive un po' quali sono, perché comunque non rimangono rose. Si parla di un taglio di quasi il 40% all'assessorato dell'ambiente nel nuovo bilancio, quindi insomma che è una tregua di 2 mesi, ma la situazione rimane abbastanza pericolosa. Sì, è naturale. Noi avevamo in mente questi giorni naturalmente mobilitazioni forti, che con le notizie delle ultime ore sono un po' rientrate, ma non fosse altro perché insomma le energie anche da spendere sono limitate, insomma i lavoratori hanno anche una vita giustamente loro, e quindi diciamo abbiamo questa tregua armata, ma le prospettive naturalmente rimangono allarmanti, perché rimane questa volontà di tagliare, punto, cioè non di capiamo insieme come può migliorare un servizio dove si può effettivamente tagliare o risparmiare o lavorare semplicemente in maniera diversa. cioè non c'è questa volontà, e c'è solo la volontà di ridurre il costo. È chiaro che a queste condizioni il futuro non è roseo. Noi ci aspettiamo di dover battagliare, come già abbiamo fatto pesantemente, perché comunque, come dicevi tu prima, ricordavi il taglio all'assessore dell'ambiente, forse il più importante di tutti gli assessorati, le voci in capitolo di bilancio, e quindi diciamo ci aspettiamo di dover ancora battagliare, proprio perché si è dimostrata poca volontà, diciamo, di confronto anche con chi sono anni che lavora in questo servizio, in questo settore. Ok, non so se hai altro da aggiungere, anche no. Se ci sono appuntamenti, no. Che ne so, iniziative, modi per informarvi, per starvi appresso, diciamo. Allora, diciamo che una visita in canile è sempre ben accetta, voglio dire, la finalità rimane quella di far trovare casa agli animali, quindi per qualsiasi informazione vogliate, se qualcuno si porta via un cane fate bene, vi portate via, fate informazioni e un cane, facciamo così. E quindi noi diciamo che adesso non abbiamo appuntamenti di breve scadenza e eventualmente li diremo, però l'appello rimane invece, proprio perché noi teniamo a quello che facciamo, l'appello è quello: venite in cane, adottate venite in canile, adottate canile. Un cane, scusate, sono arrivato anch'io all'esaurimento delle batterie. E niente, no, noi volevamo magari fare una breve riflessione su quanto c'è stato detto fino adesso e sul quadro che c'è stato tratteggiato, perché partendo dal presupposto che l'Italia, insieme alla Grecia, è l'unico paese europeo dove non è prevista la soppressione dei cani e gatti randaggi e presenti nelle strutture private e pubbliche, e questo è sicuramente un aspetto positivo. Però il problema è che, a margine di questo aspetto positivo, tutto il resto è completamente abbandonato a se stesso. La cosa principale che si evince, ed è triste dirlo, ma cani e gatti sono fondamentalmente un costo. È brutto ed è soprattutto sorprendente vedere come al tempo stesso comuni, regioni, enti locali, insomma le istituzioni preposte, non sappiano affrontare questo tema neanche dal punto di vista dei costi, cioè non sappiano neanche progettare un investimento in materia, nel senso che è sconcertante vedere che in un paese dove ci sono canili, gattili, stracolmi di animali, spesso in condizioni veramente vergognose. Tra l'altro, l'ultima notizia proprio qua a Roma, il sequestro di un canile privato abbastanza famoso negli anni, il canile Parrelli. Ed è sconcertante vedere come in questo paese, a fronte di questa situazione, che tra l'altro è un costo economico per la collettività, sia possibile continuare a far nascere animali, a vendere animali, trattandoli come una merce, visto che invece nessun essere vivente dovrebbe avere un prezzo, potrebbe essere venduto o comprato, perché un essere vivente non è un oggetto. E soprattutto vedere come esistono quindi ancora allevamenti, negozi e via dicendo, e anche il fatto che non c'è nessuna politica che punti in prospettiva, che ragioni in prospettiva, cioè non più pensare semplicemente a far adottare gli animali con campagne anche abbastanza ridicole, ma non far entrare animali in queste strutture, quindi tagliare a monte costi. E insomma, come abbiamo detto in trasmissione, l'unico modo sarebbe appunto, innanzitutto chiaramente dal nostro punto di vista è quello di proibire immediatamente la vendita di animali, cani, gatti e di tutti gli animali d'affezione, quindi conigli, roditori, uccelli, pesci e via dicendo, ma questo è un discorso più ampio. Però in generale anche lavorare sul territorio, sterilizzare gli animali, fare in modo che gli animali continuino a vivere sul territorio, perché come giustamente prima sottolineava la nostra compagna in radio, Roma è una città che purtroppo si sta espandendo a dismisura, e nei quartieri nuovi, dove magari sono sempre vissuti branchi di cani o colonie di gatti allo stato semiselvatico, adesso arrivano persone che comprano case, pretendono di vedere il loro quartiere completamente ripulito da questi animali, e questi animali entrano in canile, ed entrano in canile per rimanerci, perché non è un cane che per 7 anni, 8 anni ha vissuto libero, lontano dal contatto con l'uomo, entra in canile, a un certo punto questo cane si trasforma e diventa il cucciolo della Scottex che viene adottato dalle persone, no? No, anche perché sono praticamente cani di questo tipo, che sono la maggior parte che entrano, sono cani, realmente stiamo parlando per lo più di maremmani enormi, ingestibili, cioè stiamo parlando di morte certa dentro una galera, perché poi purtroppo di quello si tratta. E, no, è chiaro che le riflessioni che tu fai sono condivisibili. Noi già anni fa, come diciamo collettivo, proponemmo al comune una gestione diversa dei canili, cioè decentriamoli, nel senso lavoriamo nei territori, facciamo dei piccoli rifugi, dividiamo Roma in quadranti, 8 quadranti, 8 piccoli rifugi dove accogliere i cani liberi, feriti, curarli e rimetterli in sesto, rimetterli nei territori, fare controllo demografico, fare controllo sui territori. Cioè noi già avevamo proposto all'epoca una gestione diversa, che non è naturalmente la chiusura dei canili in generale, perché naturalmente poi quello è un passaggio, un obiettivo che ha bisogno di passaggi, ma un passaggio poteva essere naturalmente la gestione territoriale dei cani, non la gestione centrata in una mega struttura dove mettere, immagazzinare animali fino a scoppiare, perché naturalmente è questo. E poi, come dicevi tu, la speculazione edilizia di questi nuovi quartieri residenziali di super ricchi, che tra l'altro sono decine di palazzine vuote, dove naturalmente non è possibile presentare un appartamento di quel taglio con il cane randagio che ti vive sotto casa. La borghesia non prevede questo tipo di ospitalità. Quindi è quello il discorso. Il discorso è solo esclusivamente la speculazione. Se non c'è speculazione, non interessa a nessuno, naturalmente. Eh sì, diciamo che questo poi è un po' un problema comune, visto che poi i cani Sì, certo. Non ricordo se l'abbiamo già sottolineato prima, magari appunto me la sono un attimo persa, però appunto prima parlavamo tra di noi pure del fatto che l'obbligo di far entrare un animale in un canile o in un gattile è dato soltanto a livello proprio legale, se l'animale è malato, se deve essere curato. Sì, cioè in realtà sì, però diciamo l'ingresso poi avviene per due strade, no? È chiaro che se arriva la persona che vuole lasciare, abbandonare il cane, no? Perché tu ti puoi trovare in una situazione in cui arriva una persona e vuole lasciare il cane, allora lì come ti comporti? E lì è un altro lavoro che viene fatto in questa nelle canine, perché non è che arriva una persona e lascia il cane e se ne va, perché non funziona così. Però molte volte ci si trova anche lì a domandarci: ma questo cane può tornare con questa persona? È in grado questa persona di gestirlo? E quindi quello già è un modo in cui purtroppo entrano cani. L'altro modo, che è quello diciamo ufficiale tra virgolette, appunto dovrebbe essere di controllo sul territorio, e quindi se c'è una segnalazione su un territorio di un cane ferito, la ditta che lo va a prendere dovrebbe andare col veterinario, verificare effettivamente se il cane è ferito, portarlo in canile, stabilizzarlo e rimetterlo sul territorio. Quello dovrebbe essere, ma non è così, perché quelli lavorano a chiamata. Ogni cane che loro vanno a prendere casualmente è ferito, poi non si sa bene dove, come, però è ferito. Quindi il veterinario, il cane è ferito, sì, sarà sotto stress, molte volte addirittura sedato, cioè il cane entra in stato di shock, entra evidentemente ferito, magari non fisicamente ma in stato di shock, e viene portato alle gabbie. E lì poi il meccanismo, quello invece importante, che è gestito appunto dalla ASL, non funziona, si ferma, il cane entra e come dicevamo prima purtroppo non esce più, perché ci sono questi cani qua che sono poi la maggior parte, e questo è il problema, perché uno pensa che in canile ci sono i cani che la gente porta perché si è stufata di avere il cane. No, non è così, cioè la drammaticità è proprio questa, che esistono centinaia di cani dentro quel posto che potrebbero essere cani territoriali e che invece ora ormai sono cani che soffrono dentro quattro mura, che sono caratterialmente irrecuperabili, hanno dimensioni enormi, quindi non è neanche di difficile collocazione per le famiglie, e sono destinati alla morte. Va bene, allora io direi, insomma, se non abbiamo più domande magari mandiamo un'altra canzone. Ringraziamo il compagno che stasera è venuto qui in radio con noi a raccontarci, insomma, tutta la situazione. Sì, su questo, tutto questo anche per ribadire che anche cani e gatti da questo punto di vista vengono trattati come oggetti, come tutti gli altri animali, cioè vengono trattati come se fossero una cosa da comprare o una cosa di cui disfarsi. Però quando cosa sola, proprio perché giustamente poi uno, diciamo, mette l'accento sulle cose che non funzionano, no? E quindi è importante, perché se per far capire bene, però diciamo che nella sfortuna questi animali hanno una fortuna, quella di capitare, di venire in mano nostra, cioè nel senso, piuttosto che morire o essere soppressi o finire in chissà quale struttura, almeno questi cani hanno questa fortuna, cioè vengono in canile, probabilmente ci rimarranno perché sono inadottabili per lo più, e noi parliamo naturalmente in questo caso di cani del territorio, poi ci sono tutta una serie di altri cani invece che hanno altre storie, sono adottabili, vengono adottati e quant'altro, però anche lì, cioè, questo è un orgoglio per noi poterlo dire, no? Che comunque quei cani che finiscono da noi almeno hanno quella dignità di vita, di esistenza che noi gli garantiamo tutti i giorni e che il comune però sembra non essere dello stesso avviso. Questo ci tenevo giusto per precisare e dare anche merito, onore al merito, al lavoro che si fa dentro il canile. Tutto qua. Sì, e poi c'è anche sempre da ricordare che comunque i cani e i gatti sono degli animali tra virgolette privilegiati, nel senso che comunque vengono considerati sempre il migliore amico dell'uomo. Insomma, per i topi non viene fatta la stessa tarantella. Il comune non è che pensa alle sterilizzazioni, fa la derattizzazione e addio. Taglia alla radice. Tra l'altro, a questo proposito, il comune comunque, questo già diversi anni fa, ha completamente tagliato i fondi per alcune associazioni che si occupano per esempio di recupero di fauna selvatica, quindi uccelli, dagli uccelli alle tartarughe, che sono un altro classico esempio di animali che vengono comprati e poi vengono abbandonati, spesso con notevoli danni anche dal punto di vista ecologico, uccelli come pappagalli e via dicendo. Anzi, i pappagalli hanno la fortuna di saper sopravvivere liberi, tant'è vero che Roma... Sì, e anche la fortuna di saper distruggere tutto quello che incontrano. Diciamo. Questo si apre un'altra parentesi, comunque... Ma tra l'altro, su questa parentesi... Pure sui pappagalli. Cioè, sui pappagalli magari no, però su altri animali, quello che non dovrebbe far comune, molte volte lo facciamo noi, come canili e gattili, molte volte, anche a titolo personale... Ed è successo anche ultimamente col settore adozioni, che si è presa carico di conigli malati trovati anche da te e sono finiti. Ce l'ho a casa una io di sti conigli. Belli erano. Però è durata 3 giorni, poi è morto. Poi è andata al forno. E cioè, noi ci siamo presi carico a titolo personale di un maltrattamento di conigli, ce li siamo presi, abbiamo cercato di farli adottare, cioè noi facciamo anche questo, arriviamo veramente dove manca totalmente il pubblico e il comune o la regione, chi che sia, che deve gestire queste situazioni. Va bene, dai, speriamo che il comune non tagli i servizi e soprattutto che rilancia alcuni servizi sul territorio che sono stati completamente smantellati, il che segnerebbe anche un cambio un po' di prospettiva e poi il superamento di questo dualismo tra il cane e il gatto, che possono essere o animali domestici o animali randaggi, laddove per randaggi si intende appunto abbandonati che stanno per strada, che costituiscono un pericolo e tutto. Esatto. Quanto, quando invece dovrebbero semplicemente, sono semplicemente altre specie di vita che condividono uno spazio con noi. Assolutamente. E poi ovviamente sempre l'idea di base che abbiamo ripetuto tutta la sera, non mi guardare mai, sto dicendo una cosa condivisa, cioè il fatto che comunque le persone fondamentalmente trattano degli animali come degli oggetti, e quindi magari appunto pensano che il cane sia un imprevisto da rimuovere, come può essere anche lo zingaro, non lo so, o l'immigrato. Noi potremmo chiamare la mia compagna, tanto per farla breve, che si occupa del settore adozioni, ma tu non sai le centinaia di litigate con persone assurde che vengono in canile perché loro si sono stufati del cane o del gatto, cioè sono allergici, dopo 10 anni di cane hanno scoperto di essere allergici. Cioè noi facciamo anche tutto questo, cioè noi ci prendiamo in collo, anche tutte queste situazioni che vi posso assicurare sono tantissime, tantissime. Vabbè, dai, mettiamo una canzone e appunto ribadiamo con fermezza che appunto la nostra contrarietà, le decisioni dell'uomo su tutto quello che riguarda l'onnisciente, anche sulla compravendita di animali, specialmente di animali che provengono da altri posti del mondo, che poi vengono così lasciati a distruggere l'ecosistema gratuitamente. Stiamo parlando di pappagalli, sì, i pappagalli o le tartarughe con la testa rossa, no? C'era sì. Lì la lista è il bambù. Ah, prima di iniziare a parlare di pappagalli, tartarughe, per piacere metti la musica prima canzone. Che parte il tuo, no, abituale delirio. Una cosa che fa troppo ridere secondo me. Pure te, cioè, tra le tante cose assurde sono successe in canile, mi segnalano di dire di uno che voleva adottare un cane bianco e nero perché lui faceva collezione di oggetti muccati. Vabbè, questa cosa. Questo è il genio, però, cioè, tutto sommato aveva ragione. Vabbè, dopo questa aberrazione direi che vabbè, è il caso di chiudere. Vabbè, dai, ti ringraziamo. Grazie a voi. Ciao. Va bene, rientriamo un attimo in diretta. Adesso direi che leggiamo un paio di comunicati. Il primo che leggiamo lo prendiamo dal sito di support kevinandtyler.com. Vado a leggere. Tyler Lang e Kevin Olive sono due attivisti per la liberazione animale che sono stati arrestati il 14 agosto 2013 nelle campagne dell'Illinois per possesso di attrezzi da scasso. Dopo essere stati fermati dalla polizia per un controllo stradale, la loro auto è stata perquisita. All'interno la polizia dice di aver trovato cesoie, tronchesi, acido muriatico, passamontagna e abiti mimetici. Secondo la polizia questi attrezzi sarebbero attrezzi da scasso, preparati per commettere un crimine. I crimini di cui sono accusati prevedono sino a 3 anni di carcere. Tyler e Kevin sono in carcere dal 14 agosto. Il fatto che entrambi siano attivisti per la liberazione animale è l'unico motivo per cui sono stati arrestati. La polizia non ha nessuna prova che li leghi a nessuna azione e quando sono stati arrestati non si trovavano su proprietà privata. Ci sono altri dettagli che ora non possono essere divulgati, ma verranno pubblicati sul sito di supporto appena sarà possibile. Riguardo a Kevin Olive, è un attivista di 25 anni di Brentwood, California, vegano dall'età di 15. Kevin è stato attivo in numerose campagne per la liberazione animale dall'età degli anni 2000, tra cui la diffusione del veganesimo, campagne contro la vivisezione ed un tour con Sea Shepherd. Tyler Lang, invece, è un attivista di Los Angeles, della California, è vegano anche lui da 14 anni ed è attivo per la liberazione animale. Nel 2009 è stato arrestato e condannato per aver partecipato a Home Demos, protesta davanti alle abitazioni, contro i visitatori dell'UCLA, l'University of California di Los Angeles. Nello stesso anno ha partecipato alla campagna contro Fortress Investment Group nell'ambito della campagna per chiudere Huntington Life Science. Dopo 6 mesi di Home Demos, Fortress ha annunciato che non avrebbe più fatto affari con HLS. Tra il 2011 e il 2012 Tyler è stato denunciato da AstraZeneca, BlackRock e Berkman Counter per il suo ruolo nell'organizzazione di proteste contro i dirigenti di queste aziende. Tyler continua ad organizzare proteste a Los Angeles e con il gruppo Empty the Cages Los Angeles contro l'aeroporto LAX e altri obiettivi collegati alle compagnie aeree che trasportano primati per la vivisezione. Sempre, insomma, sul questo era il comunicato che vi abbiamo letto, e sul sito supportkevinandtyler.com potete trovare anche quelli che sono gli indirizzi per poter scrivere delle lettere a questi due compagni. Sì, e poi vai, continuiamo con quella, per gli appuntamenti dopo. Sì, per due persone che purtroppo sono finite in carcere, una che invece ne è uscita. Si tratta, prendiamo sempre la notizia da informazione.info, si tratta del messicano Braulio Duran, che è tornato in libertà il 9 ottobre dopo aver passato gli ultimi 3 anni nel carcere di León, condannato per il reato di incendio doloso, e che ha scritto questo breve comunicato: vorrei approfittare di questo spazio per esprimere la mia più grande gratitudine a tutti quelli che mi hanno espresso il proprio appoggio tutti questi 3 anni. Mi piacerebbe molto dire un milione di cose per tentare di spiegare quello che provo, però l'unica cosa che mi viene in questo momento è questa. In un altro momento proverò a scrivere qualcosa di più lungo e più profondo riguardo a questa dolorosa esperienza. Per oggi nella mia mente e nel mio cuore ci sono molte emozioni e pensieri, così che mi prenderò il tempo necessario per organizzarli bene in un comunicato che spero di scrivere a breve. Voglio solo dire 2 cose. Ai compagni, alle compagne, ai collettivi, a tutte le individualità dico nuovamente grazie mille per tutto. Ricordatevi che l'obiettivo è non tirarsi indietro. E a te che hai voluto abbattermi con la tua prigione, con la tua sfrontatezza, voglio che sappia che con me non ci sei riuscito e nonostante abbia tentato di colpire me e i miei cari continuo a essere in guerra. Voglio che sappia che nulla finisce qua. Pagherai ogni lacrima versata, pagherai il dolore delle persone a me care. Non ti dimenticare che in ogni momento e luogo siamo e saremo anonimi. Hai voluto ridicolizzarmi, però io vedo più di questo. Ricorda che siamo molti che giorno dopo giorno andiamo avanti lottando per la tua totale distruzione. Qui e dovunque esiste odio per la tua maledetta repressione, contro la tua maledetta dominazione, il tuo maledetto capitale. Voglio che sappia che la tua dottrina, alla quale volevi piegarmi, la sputo e la rigetto, e anche se per alcuni possiamo essere insignificanti, sappi che siamo un dolore. Ricordatelo, non siamo tutti, mancano i prigionieri. Viva l'anarchia, viva la libertà, e continuerò cercando di divorare uno per uno tutte le mura che mi circondano prima che queste divorino me. Con sincerità, firmato Braulio Duran, anarchico vegan straight edge per la distruzione della civilizzazione e del suo stato capitale. E continuiamo leggendo quello che è un appuntamento che si terrà il 25 ottobre qui a Roma, a Centocelle Aperte, una cena e concerto benefit per i condannati e le condannate del G8 di Genova, These Machines Kill Repression, serata a sostegno dei compagni e delle compagne condannate di devastazione e saccheggio per le giornate del G8 di Genova 2001. Il 13 luglio 2012 10 persone sono state giudicate colpevoli di devastazione e saccheggio durante le giornate del vertice G8 di Genova 2001. Per 5 di loro è arrivata subito la pena da scontare, mentre il rinvio in appello per i reati attenuati, la condanna per devastazione e saccheggio rimane, porterà le altre 5 nuovamente in tribunale il prossimo 13 novembre. Marina e Alberto sono ormai in carcere da più di un anno. Ines, mamma di una bambina piccola, agli arresti domiciliari. Francesco, detto Jimmy, introvabile per alcuni, è stato inghiottito anche lui dalle patrie galere, mentre solo Vincenzo è libero, per quanto libero possa essere libero chi è costretto a vivere nella latitanza. Molte e molti di noi erano a Genova per poter diffondere il dissenso verso un mondo guidato dai potenti in cui nessuno e nessuna di noi si riconosce. Ricordiamo la repressione di quei giorni e cerchiamo di raccontare, ma ricordare non ci basta. È nostra responsabilità occuparci dei nostri compagni e delle nostre compagne, capri espiatori di quelle giornate in cui ben 300.000 persone si riversarono per strada. Vogliamo farlo con il sostegno politico, emotivo e non ultimo economico. Info sui processi e solidarietà su supportolegale.org e 10%.it. Dalle ore 20 ingresso con cena vegana, buffet, concerto a 8 euro. Cena vegana a cura della cucina popolare vegan. Dalle 22 concerto a sottoscrizione libera con El Spit, Reverend Knopf e Tutti i frutti Apocalypse, Lubna Barracure e Marder Farts. Comunque maggiori informazioni le potete trovare o sul sito centocelleaperte.org oppure anche su www.informa-azione.info. Invece diamo anche un altro appuntamento, questo però a Bergamo, siamo fuori regione, e parliamo della seconda biciclettata che viene indetta dal coordinamento Libere Selvadec. E potete trovare l'appuntamento sia sul loro sito www.liberselvadec.noblogs.org sia su informazione. Oddio, non mi ricordo, info. Ok, allora la biciclettata appunto è stata organizzata per sabato 19 ottobre, una nuova giornata di mobilitazione contro l'apertura degli allevamenti di visone nella provincia di Bergamo e di Cremona. I paesi di Antegnate e Misano, sede dei progetti di allevamento, saranno attraversati da una rumorosa critical mass con l'obiettivo di ribadire la ferma opposizione a questi progetti di sfruttamento dell'uomo sugli altri animali e dell'uomo sulla terra. Ci troviamo ognuno e ognuna provvisti di bicicletta alle 10 davanti al comune di Antegnate in via Dante Alighieri e poi pedaleremo in direzione di Misano e durante il percorso ogni paese, auto e passante sarà informato su quello che accade nei territori della bassa bergamasca e sulla necessità di agire per la liberazione degli animali. Durante il percorso ci sarà un momento di ristoro con alimenti provenienti da coltivazioni locali e biologiche, liberi da pratiche di sfruttamento animale e della terra. Per chi parte da Bergamo il ritrovo alle 9 dal parcheggio della Malpensata in via San Giovanni Bosco. Ogni voce, suono, cartello, messaggio che porteremo con noi renderà più comunicativa la nostra iniziativa. Vi invitiamo a portare con voi qualsiasi strumento rumoroso e o cartelli a tema di vostra fantasia. Chi fosse sprovvisto della bicicletta può comunque contattare il coordinamento che magari troverà una bicicletta da prestare per l'occasione. E con questo direi insomma che possiamo dare anche i nostri contatti. Se volete scriverci una mail lo potete fare a lagazzaladra@inventati.org. E se invece volete continuare a guardare il nostro fantastico blog che è finalmente aggiornato, potete aggiornato farlo con cadenza quotidiana, direi radiopossum.noblogs.org. Ma perché ci dobbiamo sempre sminuire in diretta? Ci la zappa no, sui piedi. Io dicevo sul serio. Vabbè, allora come al solito. Vabbè, dai, ci diamo appuntamento a lunedì prossimo, dove abbiamo in programma una puntata veramente sconvolgente, possiamo dire. Strabiliante, spettacolare. Davvero? E da assolutamente da non perdere. Preparatevi perché probabilmente sarà anche l'ultima, perché dopo quello che faremo lunedì prossimo il mondo finirà. Perché io ne sono all'oscuro? Forse lunedì prossimo avremo anche la sigla nuova. Sto inventando completamente per magari racimolare una scuola. Non prendete appuntamenti alle 22 di lunedì prossimo, perché ci sarà una di quelle puntate che non vi dimenticherete mai. Esatto. Moscio ci parlerà del suo amore per i pappagalli verdi che vivono. Ma io solo quelli verdi. Nel cielo di Roma. Per quelli gialli, guarda. Macello. Vabbè. E niente. Dopo questa nota di imbarazzo, come al solito, mandiamo un saluto e un abbraccio a tutti e tutte coloro che sono privati della propria libertà personale. Siano essi umani e non. Tranne i pappagalli. Ciao. Ciao. Un sogno che parla ed è vero.